Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento per questa settimana con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Oggi abbiamo al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e buongiorno ai radioascoltatori. Allora Gianluca, oggi tocchiamo argomento spesa, nel senso dove andiamo a fare le nostre spese, perché è interessante capire come un po' si muovono le cose, come cambiano le abitudini anche degli italiani. In questo caso non so se i riferimenti che ci dirai sono dell'Italia o del Veneto. Allora, mi riferisco anche a ultime indagini che sono emerse anche sui quotidiani nazionali. Ci riferiamo quindi ai dati nazionali, poi chiaramente possiamo anche parlare un attimo di quello che sta succedendo in Veneto. Diciamo che la grande novità, la grande sorpresa in realtà era già visibile da alcuni indicatori, è quella di una certa difficoltà che sta vivendo l'ipermercato, quindi la grande distribuzione organizzata, quella diciamo tanto odiata dal piccolo negozietto del centro, dal piccolo alimentare, eccetera, quella che ha fatto il bello e il cattivo tempo in Veneto tantissimo, soprattutto nella zona di Venezia, dove insomma i centri commerciali sono nati come funghi, e adesso cominciano ad esserci invece anche alcune difficoltà economiche già testimoniate, Francesco, lo scorso anno, per esempio, con i tagli del personale da parte dello Shan, con 1500 sì. posti tagliati in tutta Italia. Sì, infatti, quindi diciamo che sta cambiando qualcosa. Infatti nei grandi centri commerciali, come hai fatto riferimento tu, ma non solo in quelli, ci sono tantissime, la cosa che mi stupisce è che ci sono tantissime casse predisposte e poi che funzionano alla cassa, ce ne sono un paio, le altre sono ormai le casse quelle automatiche dove ti devi passare i prodotti da solo, paghi da solo, ti imbusti la roba da solo e insomma ti arrangi, no? Le odiatissime casse automatiche, odiatissime soprattutto dalle persone anziane, ma non sì. solo. Però è vero, diciamo che è stato il primo assaggio insomma della crisi, andiamo a eliminare appunto personale quindi aumentando il numero di casse automatiche che non costano nulla perché appunto sono automatiche, per cui insomma la crisi si vedeva anche da là, diciamo. Quello che noi abbiamo potuto notare è invece una certa ripresa, una certa rivalutazione del supermercato, non dico degli alimentari sotto casa, perché quello continua a fare difficoltà, ad avere difficoltà, però del classico supermercato che a differenza dell'iper insomma ha spazi più piccoli, ecco, certo. Anche se l'offerta è assolutamente ampia. Credo che insomma anche i veneti si siano accorti insomma che nelle varie città, nelle varie realtà, nei vari capoluoghi insomma i supermercati aprono abbastanza di frequente, magari anche chiudono o cambiano insegna, però aprono, diciamo che è una formula che alla gente piace perché in tanti non hanno più voglia di prendere la macchina e di fare la spesa del mese, che era il classico atteggiamento di chi va all'ipermercato, fa la spesa per tutto il mese, riempie il carrello. Magari anche solo per una settimana, ma questo ti crea delle difficoltà oggettive, nel senso che ovviamente parti per andare in un posto dove hai il tuo bel parcheggio sicuramente, ma devi riempire il carrello, farti una spesa che deve essere un po' programmata e poi devi stare dietro anche alle cose che hai comprato, perché se no le butti via, no? Questo è da considerare. Forse magari uno dice vabbè, spendo quel 5% in più pagando quel prodotto poco di più nel supermercato sotto casa, ma mi compro la roba che mi serve e non butto più via nulla. Allora Francesco, anche da questo punto di vista forse anche questo è proprio un altro cambiamento, c'è talmente tanta concorrenza nell'ambito dei supermercati cittadini che in realtà anche sul prezzo oggettivamente si nota che poi non sono queste grandi differenze tra il supermercato e l'ipermercato, anzi per molti aspetti si equivalgono, se non addirittura il supermercato supera in risparmio l'ipermercato. Questo lo si vede, non si nota, perché appunto la diciamo, guerra tra virgolette insomma tra le varie realtà dei supermercati che stanno aprendo si combatte soprattutto a colpi di offerte, di promozioni 3x2, quindi capisci Francesco che la nascita di tanti supermercati anche molto ravvicinati l'uno all'altro fa sì che alla fine la concorrenza aumenti e quindi anche i prezzi siano assolutamente favorevoli, poi dipende da chiaramente da insegna a insegna. Però devo dire che la convenienza si trova anche nel supermercato sotto casa, assolutamente, senza spostare la macchina, tra parentesi. Da dire forse che una cosa che capita è che negli ipermercati tengono aperto quasi tutti anche alla domenica. I supermercati di quartiere invece, fortunatamente, lo dico per chi ci lavora, ovviamente riescono a stare tranquilli, a farsi almeno la domenica a casa. Allora Francesco, anche qua c'è stato una... Adesso, l'anno penso sia stato il 2011-2012, abbiamo fatto dei monitoraggi anche qua nella nostra regione e c'è stato un boom di piccole realtà di supermercati che hanno cominciato ad aprire la domenica. Devo dire che adesso c'è un ritorno al passato, si tende ad aprire solo mezza giornata per esempio, non più tutta la giornata. E, perché evidentemente si è visto insomma che forse la domenica mattina il clou poi della spesa, nel pomeriggio c'è meno gente. Certo, il supermercato offre ancora questa possibilità, quindi e sicuramente è un vantaggio, tant'è che ci sono realtà Veneto forse non troppo diffuse di strutture aperte H24 che sicuramente danno dei vantaggi anche alla clientela. Però devo dire che forse alla fine è un po' fallito l'esperimento dell'apertura domenicale, almeno dell'apertura domenicale per tutta la giornata. Quindi diciamo che il supermercato comunque anche da questo punto di vista offre un'opportunità, perché guardando a quasi tutte le realtà del territorio, tantissime, anche il 70% comunque la domenica sono aperte, anche quelle piccole, metà giornata, non più tutta, però insomma la possibilità di fare la spesa c'è anche nella piccola struttura, insomma. Beh, interessante insomma capire che i supermercati di quartiere, diciamo così, reggono e almeno quelli non chiudono, invece ci possiamo un po' dimenticare, come li avevi detto tu all'inizio, i vecchi alimentari, quei negozietti piccoli che riuscivano ad avere un po' di tutto, ma ovviamente non possono permettere prezzi vantaggiosi, oggettivamente non sono, molto spesso non sono vantaggiosi, possono magari essere migliori in qualità come offerta, sì. E come prezzo direi di no. Tra l'altro, scusami, ultima considerazione, piccolo vantaggio della crisi è quello che i prezzi sono fermi, certo. In sostanza abbiamo visto che anzi siamo in deflazione, quindi diciamo che almeno sul carrello della spesa questo è un vantaggio, non si sono visti grandi cambiamenti, grandi variazioni negli ultimi anni e da quel punto di vista insomma le famiglie sono sicuramente contente. Va bene, torneremo a parlare magari fra 4-5 mesi insomma se ci sono delle ulteriori evoluzioni della spesa dell'italiano medio. Grazie a Gianluca Codognato e grazie all'Adico. Diritti e rovesci in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.